difficile, bambina mia, com'è difficile volerti bene con questa voglia che ho di andare via, di andarmene per il mondo, con questa voglia che ho di andare via, di andarmene per il mondo. Com'è difficile, bambina mia, com'è difficile veder finire tutti i miei sogni in un bicchiere d'acqua senza neanche aver visto il mare, tutti i miei sogni in un bicchiere d'acqua senza neanche aver visto il mare. Com'è difficile, bambina mia, com'è difficile volerti bene, volerti il bene che ti voglio io, che non so vivere senza di te, volerti il bene che ti voglio io, che non so vivere senza di te.